Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, eccoci qua, 22.09, buonasera di nuovo da parte di Agostino Spolaore assieme al suo fedele compagno, il mio nonnetto preferito e... Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera. Voi non lo sapete, ma lui è il nonnetto, cioè ragazzi. Sì, sì, non sono tanto avevamo vecchio, non è di gestione di partecipazione alla radio, assolutamente. Anche d'età, via, ormai i tuoi 70 li hai superati. Sì, 70. Ah, 70. Yandra ha fatto un disco nuovo a 73 anni. Ecco, vedi, meraviglioso. Vedi. L'hai sentito, Alessandro? No, ha fatto un disco meraviglioso a 73 anni. Quindi, complimenti. Ma cioè, io noi ce lo ricordiamo con All the Young Do di tanto tempo fa, scritto da Bowie. Adesso ha fatto un disco proprio, è uscito qualche mese fa, 73 anni, con una band stratosferica, 73 anni, quindi nonnetti. Ne abbiamo noi davanti. Esattamente. Okay. Riusciremo a farne di dischi? Sì, secondo me sì. Allora, serata goliardica, come avete capito, questa sera con i Vibrida qui a Blu Radio Veneto. Vi ricordo ancora una volta i nostri numeri telefonici, quello in studio, lo 049 875 6423, mentre gli sms, se volete mandare qualcuno a questi simpaticissimi ragazzi che sono qui questa sera, che tra poco vi presenteremo, siete liberi anche di fare domande, insomma, ovviamente, di fare qualche commento. Vi ricordo il 346 23 20 033, il nostro sito www.bluradioveneto.it, lì ci potete ascoltare in streaming, cliccando semplicemente su Ascolta la radio, oppure leggere tutte quelle informazioni che ritenete necessarie per le vostre informazioni inerenti alla musica, alle recensioni, i nostri live, ci sono i podcast, c'è un po' di tutto, oltre ovviamente a tutti i fatti di cronaca e quant'altro che riguarda il Veneto e non solo. E poi ancora le pagine Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, una, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita da Alberto Prisco, che salutiamo, e lui è anche il curatore di questi tutti live. Quello di questa sera appunto è l'organizzazione tutta sua, e probabilmente sarà anche l'ascolto. Maurizio, cosa dici? Lo salutiamo? Sì, sì, sicuramente lo salutiamo. Alberto, grazie e ciao. Ti vorrei tanto qui, Alberto, perché sono in minoranza stasera, purtroppo. Adesso io mi prendo Eros e me ne vado via, perché qui sono tutti gobbi. Che bello acquisto. Tutti gobbi, parliamone. Bisogna portare rispetto a una vecchia signora. Sì, sì, è la vecchia signora. Siamo, prima, siamo nella fossa dei leoni. Ecco, bravo. Ecco, allora, sono i Vibrida, benvenuti a Blu Radio Veneto. Grazie. Grazie. Grazie. Allora, abbiamo viaggio, aspetta, ragazzi. Maurizio, che sì, li presento. Sì, Maurizio. Vai, vai. Abbiamo Mauro Siviero. Ciao. Che tu sei il chitarrista. Esatto. Alessandro Medici, il bassista. Ciao a tutti. Eros Ferraresi, il vocalist. Ciao. E anche chitarrista, se non sbaglio. Sì, sì. E poi abbiamo alle percussioni Stefano Fogli, giusto? Esatto. Benissimo. Hai il tamburello stasera. Sì, cosa molto easy, molto semplice. Ti poteva stare a casa. Potevo stare a casa. Ma no, dai, che ha pagato l'autostrada. No, dai, infatti, dai. E poi abbiamo anche la nostra mascotte, un ragazzo sì, giovanissimo, cioè, quanti anni? Non ne si dicono. Ha un sì, difetto, lo sapete, l'ho appena detto, ma si chiama Gilles. Cioè, il difetto di essere gobbo. Gobbo. chiamiamolo sì, un difetto. È un pregio essere juventino, è un pregio, ragazzi. Esatto. È un pregio. Quello che dico anche io. Appunto. Grazie mille, Mauri, sì, grazie. Di sentire. Ciao ragazzi, ciao, benvenuti, e ciao anche chi è sintonizzato. Un carissimo saluto a chi è sintonizzato su Blu Radio Veneto. Ok, passiamo al rock. Anche prima c'era il rock The Reagan, gruppo toscano. Eros, sì, l'idea della band è partita da te. Dopo svariati percorsi hai deciso, facciamo una band, vero Eros? Sì, praticamente mi hanno costretto a cantare ormai 12 anni fa. Perché mi hanno detto, ma hai una bella voce, perché non provi a cantare qualcosa? E col passare degli anni, esperienze, gruppi... Ne hai fatti, sì. Esperienze ne hai avute, praticamente. Sì, 12 anni tra gruppi comunque... Sì, è sempre suonato, praticamente. Ho sempre suonato e cantato. Nel frattempo ho scritto dei pezzi. Esattamente. A un certo punto un mio caro amico mi ha detto, ma perché non fai un CD? Ho fatto il CD e ho proposto a loro, ai ragazzi che sono qui con me stasera, queste canzoni. Quindi una bozza iniziale era stata fatta ancora prima del 2010, poi dal 23 settembre è partito il progetto ed è diventato gruppo, i Vibrida. È importante, è diventato gruppo, hai detto una cosa giusta, cioè volevi proprio riunire i musicisti per dare sfogo musicale ai tuoi pezzi. Per dare forma ai pezzi. Anche forma, sì. mi sono accorto che arrangiando i pezzi da solo non avevo le nozioni. Ma tu non sei un cantautore nel senso in cui lo formiamo, tu sei un rockettaro, sì, fondamentalmente. Esatto, cioè, infatti non volevo un progetto inedito mio, volevo un gruppo. E quindi ho cercato di contattare musicisti che più o meno avessero età e anche intendimenti vicini a tuoi. Esatto, esperienze musicali simili per formare questo gruppo. Esattamente, quindi il gruppo si è formato, l'idea è partita da te, praticamente poi lentamente, progressivamente, ecco, tu hai fatto i pezzi, hai scritto i pezzi e poi li hai mostrati ai ragazzi qui presenti. Il bassista che cosa ha detto del pezzo? Ecco, allora, io faccio una piccola premessa. Guarda caso. Faccio una piccola premessa. Ecco. Col tempo ho conosciuto Alessandro. Che è un bel basso, possiamo dire il tuo basso, È un bassista, come... ancora più bello. È un gran bel pezzo di bassista. Lui è il figo del gruppo. Bel basso, proprio da un certo risalto. Dimmi dei miei errori. La premessa è questa: lui è una persona molto critica. Vorrei usare un termine che, però, purtroppo non si può dire usare in radio non si può dire. Pignolo. Pignolo. Va bene, diciamo pignolo. Però a questo punto voglio lasciare spazio a lui per dire cosa ha pensato dei brani. Ecco, allora, prima di dire cosa ho pensato dei brani, la premessa... io all'epoca, quando Eros ha presentato il progetto, avevo praticamente smesso di suonare. È un po' che non trovo più stimoli, quindi... Ti eri ritirato. Devo dire grazie a Eros, che comunque mi ha coinvolto nel progetto, che in un primo momento, devo dire, non è che mi entusiasmasse la molto. Registriamo questa, vero? Ma è tutto registrato. Perfetto. È tutto registrato. Io mi prendo le mie responsabilità. Okay. Cioè, assolutamente. Ma tu hai ringraziato Eros comunque. Infatti, cioè... l'ho ringraziato. Esatto. No, insomma, ho sentito questi pezzi che aveva registrato lui e lì per lì ho detto, ma vabbè. Insomma, facciamo una prova, non ho niente da fare, non sto più suonando. Insomma, abbiamo fatto questa benedetta prova e il sound dal vivo da subito è cambiato. È cambiato, i pezzi avevano cambiato faccia, a suonarli dal vivo, suonarli noi, mettendoci un po' del nostro, e da lì ho detto, magari la prima impressione era sbagliata. E quindi poi siamo partiti, una prova, due prove, tre prove. Sono passati due anni, i pezzi di Ero sono stati sviluppati, ne sono stati fatti di nuovi, e quindi insomma il progetto mi ha convinto poi al 100%. Bene, e il nostro chitarrista cosa ha pensato? La stessa cosa di Alessandro? Sì, direi che mi trovo abbastanza d'accordo con la sua analisi. Ma non vogliamo fare un processo ad Eros, no. Parliamo perché, musicalmente. No, diciamo che quando mi ha fatto sentire i suoi brani su un supporto, su un CD, anch'io avevo qualche perplessità. Poi... Perché, non so, aveva una forma cantautorale quei pezzi, no? O no? Ma non no, mi pare, Eros proprio... non ha quell'indice. No, è proprio, non so, Di primo acchito mi ha dato quell'impressione lì. Poi in realtà suonandoli era tutta un'altra cosa. Quindi esatto. Proprio davano proprio gusto. Sì, risultavano un po' freddi, diciamo. Ah, capito. Sì, diamo, se si può così dire, la colpa, diciamo, un po' il modo in cui erano stati registrati. Era da solo, dobbiamo tenere conto. Sì, aveva registrato anche con altri ragazzi, ma non era un gruppo, giusto? Erano solo degli ospiti, praticamente. Esatto, quindi mancava un po' quel sound d'insieme che poi invece si è riusciti a trovare. Da subito però i testi, ecco, quelli da subito mi erano piaciuti. Detto, ecco, sì, infatti. Finalmente uno che non scrive frasi, buttate le solite là, frasi, no? che non si sa neanche poi cosa vogliono dire. E quindi... Il progetto è partito. Per chiudere il cerchio parliamo col batterista, è qui davanti. Mi pare giusto. Comodo. Tu che sei il traino ritmico assieme al bassista, cosa hai pensato dei pezzi di Eros? Ma io diciamo che per me le cose sono andate diversamente, perché io faccio parte del gruppo da luglio, quindi sono l'ultimo. Quindi arrivato. Sei una new entry assoluta. Quindi sono entrato che ormai il progetto era già ben avviato. Ben stabilito, ben avviato. Ascoltando l'EP, ascoltando anche tutti gli altri pezzi... Diciamo che mi sono piaciuti subito al primo impatto, perché subito l'orecchiabilità mi è piaciuta. Ecco, esatto. Che siano, sì, perché sono pezzi orecchiabili, però non sono orecchiabili di bassa qualità, quello per fare cazzonette. No, assolutamente orecchiabili, però fatti bene con un certo impegno. Esattamente, con un certo impegno. Questo è una certa passione. Quindi, sotto appunto Eros a contattarmi. Quindi vuol dire che hai visto te, che hai sentito il tuo sound, come suonavi, per dire. Sì. Sono venuto a sentirmi perché ho anche altri progetti oltre a questo, di cover band specifico. Che abbiamo parlato bene prima del cover band, assolutamente. Esatto. No, non abbiamo niente con le cover band. Però, secondo, questa è una trasmissione, anche Agostino mi sorregge nella questa mia interpretazione, è una trasmissione che cura, che vuole prorogare il discorso della musica live autonoma, autoctona. Esatto. Cioè, beh, insomma, lo scopo è proprio questo. Lo scopo è questo. Propria non, musica. Non per sminuire, come dicevo prima, le band che fanno cover. Però, insomma, qui è bello sentire la musica dal vivo. La musica propria. È vostra la musica. Le cover sono belle, sì. Ed è bello suonare la musica tua. Esatto, ed è una cosa diversa, un'esperienza più bella. Che quando suoni la tua musica davanti alla gente. Lo so che è bello suonare un pezzo famoso, però l'emozione è diversa. Esatto. Anche se sei bravissimo a farla, anche se lo sai a memoria. Un pezzo tuo non può essere, non puoi conoscerlo a memoria. Ci sono sempre dei risvolti diversi. Secondo me, la penso così. Anche noi che abbiamo provato questa esperienza, non possiamo che sottoscrivere. Anch'io quando avevo smesso, quindi prima del 2010, avevo fatto quasi esclusivamente. Ma non facciamo un processo alle cover band o alle tribute band? Anche perché tutti siamo partiti da lì. Certo, cioè, partiamo una scuola. È la scuola, è quella. A 15 anni non è che uno può partire con i pezzi suoi, anzi, fare le cover ti dà la possibilità di suonare in un gruppo, quindi. E di crescere, quel qualcosa in più, ricevere dalla musica quel qualcosa in più che a studiare in camera tua non avresti mai, e quindi ben vengano le cover. Poi dopo. Però devi avere il coraggio di allontanarti. Diciamo che uno è più completo nel momento in cui riesce a proporre qualcosa di suo, e anche la soddisfazione è più grande. Perché come più grande la fatica è di comporre e poi di trovare situazioni in cui poter proporre la propria musica, però la soddisfazione che se ne riceve è quando si vede anche solo una persona, è vero, che canta un ritornello delle tue canzoni, allora dici. Ho lasciato qualcosa, mentre se cantano una canzone famosa Urlando contro il cielo, dici sì, vabbè, magari sul momento ti prende, però. Hai detto una cosa giusta. Non è roba tua, però. Esatto. Una persona che canta un pezzo tuo è un'altra cosa, anche se sono 100.000 che cantano un pezzo degli altri. Esatto. Ne basta una per darti qualcosa in più, altrimenti non avresti mai. Agostino, cosa dici? Apriamo la finestra, stiamo il primo pezzo da disco. Sì, volevo chiedervi. Ah, bene, Gil, vai. E non ti vedo, Gil, coperto. Sei coperto. Perché sono piccolo. Perché sei una mascotte, esatto. No, volevo chiedere, a parte che sicuramente ascolteremo della buona musica con questa band, la cover, se è una scuola di musica, sicuramente a voi è servita molto, perché abbiamo ascoltato un po' prima il vostro CD e sicuramente c'è tanta buona musica, ci saranno tantissime cose da chiedervi, e anche il buon Maurizio entrerà un po' sul tecnico. Comunque, una curiosità, anche per conoscervi un attimino di più, Vibrida, questo nome, da dove nasce Vibrida? Vibrida è l'unione di due parole, via ibrida, ovvero tutte le esperienze che ho fatto in questi anni, passando da un genere all'altro della musica, mi hanno portato a confluire in un'unica strada e a mettere dentro tutto quello che ho imparato, per questo via ibrida, Vibrida. Ho capito, benissimo. Soddisfatto? Certamente sì, un modo un attimo per conoscere un attimino di più. Io quello che vorrei, lo vorrei far sentire, che ne dite? Sì, anche d'accordo, vorrei. È la canzone che apre l'intero lavoro, che si intitola questo disco? Vibrida, semplicemente. Sì. Quello che vorrei... mia mente, cerco ancora mille risposte, ma non fa niente. Provo a inventarmi un nuovo futuro, credere in un mondo sicuro e in ciò che amo. Non è cambiato niente in me, sento dentro, si è dissolto ogni tormento, ma quanto ho pianto. Non è cambiato niente in me, sono rimasto semplice. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Eccoci qui di nuovo in diretta con Maurizio, con Gilles, con il sottoscritto Agostino a presentarvi, insomma a regalarvi la musica dei Vibrida. Prima però di continuare questa carrellata con la loro musica, volevo salutare una carissima persona, si chiama Ellie, ci sta ascoltando dalla Lombardia, o meglio dal capoluogo, da Milano. Non gli ho chiesto se è interista, juventina o quant'altro, insomma. Comunque è da Milano, vi sta ascoltando. E gli mandiamo un caro saluto, ragazzi. Un saluto. Ciao. Ciao. E forza ciao. Milan. Esatto. Sicuramente milanista. Questa la censuriamo, eh. Sì, d'accordo. Ciao Ellie, un abbraccio e un buon ascolto del sottoscritto di Maurizio Di Gilles di Vibrida qui a Blu Radio Veneto. Gilles ha detto una cosa giusta. Gilles, ci sei al microfono? Certo, certo, ecco. Certo. Solo che eccomi qua. Ero pronto per stare facendo un po' anche il fotografo. Fotografo. Esattamente. No, tu hai detto una cosa giusta mentre il pezzo andava. Sì. Mentre i microfoni erano spenti. Sì. Il ritornello era molto accattivante, a presa immediata. E c'è un motivo, cioè fare un ritornello, adesso parlo con Eros ma parlo anche con tutti gli altri, non è una cosa semplice, ci si deve pensare. E questo è un pezzo pop, decisamente un pezzo pop, sì. Però non un pezzo pop così, un pezzo pop fatto in una certa maniera. Per attirare l'attenzione sì, però non per svenare l'attenzione, per attirarla nel senso positivo del termine. Sì. Adesso mi devi spiegare, e spiega ai nostri ascoltatori, il perché hai voluto dare l'input, l'intro così, in una certa maniera, per attirare l'attenzione ma positivamente. Allora, a parte il fatto, do una regola generale, che è questa. Quando scrivo, di solito scrivo la parte musicale. Certo. Dopo metto giù le parole. Ah, dopo metti giù le parole? Dopo metto giù come le parole. Come Mogol e Battisti, sono praticamente. Sì, più o meno, diciamo. È un po' troppo. Lui ha detto Alessandro, più o meno. È un po' troppo. Con le dovute proporzioni. Tecnicamente, tecnicamente facevano di così. Di solito lo guardo perché ho bisogno di un intervento su in questi casi. Tecnicamente facevano esatto. Così. Vai. Dopo ho seguito un prezioso consiglio di uno studio di registrazione. Sono andato anni fa, ancora nel 2006, in questo studio, e mi hanno detto: tu scrivi la tua canzone e intanto continua ad ascoltare musica e cerca di capire cosa funziona nella tua canzone e cosa non funziona rispetto al brano che ha fatto successo. In base a quello plasma la canzone. Questo non è una clone, un clone o una copiatura, certo. Esatto, una copia. È un più un lavoro d'artigiano. Mm. Sui suoni, praticamente. Sui suoni, sull'arrangiamento. Sulle parti proprio della canzone. Questa canzone è stata ispirata comunque come arrangiamento da un altro brano, che non sto qua a menzionare per ovvi motivi. Certo. Però diciamo che l'ho fatto mio ascoltandolo e interpretandolo in questo modo. Quindi non è una questione semplice fare un pezzo, ci si deve pensare. Sì. E più di una volta, assolutamente. Anche perché questo brano ha subito molte variazioni. Ecco, vedi. È partito con una durata, con delle parti totalmente diverse. Era 4 minuti e mezzo. Mm. L'abbiamo utilizzato come apripista per concorsi e comunque è il nostro primo singolo che abbiamo voluto far sentire alla gente. E un po' anche per tempi tecnici da radio e da concorsi abbiamo dovuto ridurre il brano. Ho capito. E quindi anche lì abbiamo fatto un lavoro di arrangiamento post, chiaramente post registrazione, per arrivare a questa canzone. Sì, perché se uno ci creda o no, i concorsi sono importanti per farsi vedere, per farsi sentire. Quando si fa musica propria è indispensabile, c'è poco da fare. Sì, sì. E non c'è niente altro, non ci sono altri sistemi, nonostante che noi non abbiamo certi modi di fare televisione, soprattutto perché la televisione ha rovinato, secondo me, le band, la musica. Sì, sì, sì. E non poco. E non poco, perché la gente vede la persona e non sente, vede la persona e non sente, quello è bello. Infatti una cosa che così dico sempre io... Io sento dire vado a vedere un concerto. Ecco, vado a vedere. Io non vado a vedere un concerto, lo vado a sentire. Esatto. Però no, il 99,99999% delle persone dice vado a vedere un concerto. Ma non lo fa per cattiveria, cioè, perché è un modo di dire, è sbagliato. Modo di dire, però è sintomatico di quello che conta. Certo. Oggi e, insomma, la musica si è un po' persa, ci sono altre cose, vestite magari da musica, ma che musica non sono. E quindi insomma noi conviviamo anche con questo ambiente, sì. Poi un po' ne prendiamo anche, perché poi c'è anche del buono. Sì, faccio sono l'esempio d'accordo. Di quello che vorrei, il pezzo che abbiamo appena sentito, quando era 4 minuti e mezzo magari a noi convinceva, però quando abbiamo fatto questo esperimento, prova a ridurlo, esatto. Taglia una parte, abbiamo scoperto che funziona di più e piace di più anche a noi. E quindi insomma anche diciamo da quelle che sono le regole di quello che possiamo chiamare mercato della musica c'è anche da imparare, non è che poi tutto da buttare via, certo, esatto. Non bisogna essere snob. No, quello no. Però avete fatto, cioè, avete imparato, avete sentito, avete deciso voi, però. È quello. Certo, sì, sì. Il taglio, per modo di dire, del pezzo è stato vostro, è stata una decisione vostra democraticamente parlando, musicalmente, perché avete deciso. No, certo. Sì. Perché no, ho visto il tuo un po'. Sì. No, approvo. Emozione approvata. No, è una cosa in positiva. E come abbiamo detto all'inizio con Eros, è quantomeno pesante nel senso di sofferenza per fare un pezzo. C'è poco da fare, bisogna darsi da fare. Non c'è niente, il gioco al computer, tutti è semplice fare un pezzo, si gioca al computer, però dopo si perde, la gente sente che non c'ha in sostanza, c'è poco da fare, è così. Sì, è qualcosa di costruito. Chiaro. Sì, poi può capitare ogni tanto che hai il colpo di fortuna che sì, in due minuti butti giù un pezzo. Sono d'accordo. È successo. Dimmi. E hai successo, dico. Esatto. Sì. Se Maurizio tu sei d'accordo, penso anche io sono sempre d'accordo. Hai già capito. Sono d'accordo. Loro sono venuti qui per suonare. Per farci sentire. Una cosa non sono d'accordo con te, però adesso. No. Quale? Insomma, ce ne sono due. Una sola cosa. Beh, quella musicale, lasciamo da perdere. Però quella sportiva l'abbiamo citata adesso. Sì, comunque la Ellie ci tiene a farvi sapere che è milanista fino in fondo. Bravissima! Bravissima! Milano siamo! No? Scusate. Allora, ragazzi. Ha vinto un EP dei Vibrida. Sì, ce lo mandi a casa. Può lasciare l'indirizzo? Lasciaci l'indirizzo che. Ma davvero, Sì, vabbè, Ellie, se sei, sì, ci stai ascoltando ancora, ci lasci l'indirizzo, te lo mandano a casa. Meglio di così. Adesso cominciano a telefonare tutti che sono esatto. Vabbè, ragazzi, cosa ci fate ascoltare adesso? Allora, il primo brano si chiama Musa. È un pezzo che fa parte delle ultime composizioni che abbiamo creato. Soprattutto spendo parola su questo brano perché è stato creato insieme ai ragazzi. come al solito il percorso compositivo è musica, voce e faccio ascoltare i brani. Precedentemente erano già pronti, confezionati, che poi sono stati riarrangiati. Quindi a questo punto questo brano, oltre ad essere stato fatto, scritto da me, è stato arrangiato in tempo reale con i ragazzi. Quindi è recente, praticamente dell'anno scorso, giusto? Sì. Ok. Su Radio Veneto, come non l'hai mai sentito. Tutto in un secondo, mi guardi e mi capisci, poi mi ferisci. Io cerco ancora di lottare, combattere o ricominciare, cosciente del tuo male, so che fare. Tu, che eri posto un sogno, conosco questo tuo bisogno, la pena di aspettare, una ragione in più, non ti chiedo di restare, desiderio mi fa male, se ora la mia musa, dire scusa, nascondersi, dall'odio della gente, a loro non importa niente. A un passo dietro me, tu che mi hai riposto un sogno, conosco questo tuo bisogno, la pena di aspettare, una ragione in più. Non ti chiedo di restare, desiderio mi fa male, se ora la mia musa, non dire scusa, nascondersi dall'odio della gente. Negli occhi di chi tace, a un passo dietro me. Della gente, Ok, benissimo, pezzo, anche questo secondo me Eros è un pezzo pop però che partiva molto scheletrico, poi qui l'avete fatto decisamente scheletrico, secondo me il batterista però ci dava di brutto sul pezzo. Sì, allora in versione elettrica che lo vedo anche col tamburello, ha cercato anche di romperlo in diretta, sì. Praticamente no, con poco. I brani in versione acustica sono molto più pop, mm-hmm. anche perché le dinamiche si sentono sì in acustico, ma diciamo che vogliamo far risaltare un po' di più la voce e la melodia di questi certo, brani. Certo, certo. In elettrico sì, c'è una dinamica diversa e comunque c'è sempre la ricerca di questo tanto poco. È vero. Poco all'inizio, crescendo, si abbassa durante la strofa e poi riprende. In modo tale di dare più dinamica al brano. Anche perché non tutti i brani contengono degli assoli. Certo. Uno anche se Mauro alla fine l'ha fatto da solo con la chitarra acustica. Sì, beh. Leggermente l'hai colorato, hai concluso il pezzo. Sì, diciamo rifammi quel pezzo finale che facevi. Cioè, diciamo che in acustico non riesce a rendere l'idea che ha questo riff, questa sì. ritmica. Del brano in elettrico perché nell'arrangiamento, tra l'altro anche piuttosto recente che abbiamo fatto, l'abbiamo riarrangiato da poco, utilizzo un delay che è un effetto che ripete le pennate, che quindi può essere il ritornello si ripete continuamente, è la fase finale, è proprio pensato il delay con una ripetizione ben precisa anche in relazione del tempo del pezzo, quindi è a tempo, certo. E con una particolare ripetizione dà un effetto particolare, cioè io adesso mentre l'abbiamo suonato davo tutte le pennate, sì. In realtà con quel delay suono molto meno, però dà un effetto di ambiente molto molto. L'elettrica la suoni te? Sì. E anche Eros? Sì, lui è più di supporto, è più di accompagnamento praticamente, esatto, sì. E il nostro è Alessandro. Perché anche in questo pezzo Alessandro dava l'input, ho visto subito che è partito lui. Io personalmente nella mia formazione musicale ho sempre mi sono sempre appoggiato ai bassisti e batteristi. Il basso è fondamentale. Il basso assolutamente. Voi siete in quattro? I Beatles erano in quattro. No, esatto. Oddio, altro. Con questi paragoni. Sì, altro paragoni. Erano in quattro anche loro. Per Bacco. Tra un po' tiriamo fuori Queen. Sì, vabbè. Rolling Stones. Al di là di tutto, il basso è sempre importante. Il basso, sì. Poi a me personalmente è uno strumento che piace molto. Proprio. Quindi io mi appoggio sempre a lui. Ma in questo pezzo pop, come giustamente diceva Eros, in questo pezzo che noi abbiamo ascoltato per la prima volta, quindi è fuori del discorso del disco, esatto. Almeno quello che abbiamo sentito noi, il basso ha già hai dato l'input, come ho detto prima, dai proprio l'inizio assolutamente del pezzo. Questo non c'è. Grazie. Grazie. Andiamo, vogliamo molto in alto, ma è verso le 11 questa cosetta. Vabbè, fa sempre bene la salute. Parlavano di Le Zeppe. E oggi è il Celebration Day, tra l'altro. Esattamente. Non a caso. Vedi? Quindi, bravo Agostino. Lo so che tu sei bravo, c'è poco da fare. Sono interista. Diciamo che non c'entra niente. Basta. Non c'entra. I Led Zeppelin non sono stati mai interisti. Meno male. No, Robert Plant è milanista. Me l'ha detto lui ieri sera. Membro onorario del Milan Club di Carbonara. Sì, certo. Di Carbonara di Po, provincia di Mantova. A proposito, dove venite voi? Siete dislocati dal punto di vista temporale. Io sono di Mirandola, provincia di Modena. Modena, sei modenese? Io Carbonara Po, provincia di Mantova. Studente, provincia di Mantova. E te? San Giacomo delle Assegnate, provincia di Mantova. Ah, quindi tre mantovani e un modenese. Sì, siamo lì nella bassa, quindi zona di confine. Tutti sul confine. Ma siete vicini, sì, comunque. Tutti vicini, sì. On the border. Tutti raggiungibili. Il quartier generale è comunque Carbonara di Po. La sede legale, esatto. Amministrativa. L'unico garage libero. Mettiamola così. Siamo bello, una garage band. Hai detto una cosa, l'unico garage libero, perché una volta si provava, si costruiva, si idealizzava, si sognava dentro un garage. Anche adesso. Solo che non è più garage, infatti mia sorella lascia la macchina fuori. Che è Juventina. Esatto, tra l'altro Juventina. E ci proviamo noi. Magari ci stai ascoltando anche. Non lo so. Come si chiama? Francesca. Francesca. Ciao Francesca. Se ci sei batti un colpo. Se ci sei fatti un colpo. Mamma, se sei diventata brutta. Era Mauro. Benissimo, in ogni caso bello provato in un garage. Il garage è una cosa fondamentale. Tutti chi suona hanno cominciato da un garage. E d'altronde si fa di necessità virtù, chiaro, perché chiaro. I posti più attrezzati costano, esatto. È vero. Dalle nostre parti neanche ci sono, perché noi veniamo da piccolissime realtà, paesi lontani dalla città e tutto quanto, quindi per forza ci siamo dovuti arrangiare così, che poi la lunga è anche meglio, perché almeno abbiamo creato un ambiente nostro. Lo viviamo proprio, pressioni, poche pressioni, pressioni solo vostre e basta. Esatto. Quindi gestite voi. Che lì è diventato sala prove, studio di registrazione con annesso distributore, sì, sala briscola, tutto un po' di tutto. Distributore lì. Molto originale, tra l'altro. No, vabbè, questa, questa la sorvoliamo. Questa è un'altra storia. È un'altra storia. Il distributore rimane un mistero. Ve lo diciamo la prossima, prossima puntata, prossima volta che venite qua col nuovo disco e ci portate la sbrisolosa. Sbrisolona. Con la N. Ok, cena a base di tirotto, tortelli di zucca e sbrisolona. Un bel salame casalino. Lambrusco. Lambrusco da tutto andare. Veniamo qui alle 5 la prossima volta. Esatto. E poi rimaniamo qua a dormire. Esatto. Ragazzi, facciamo ancora un po' di musica live. Che dite? Sì, sì. Cosa sì. Ci proponete adesso? Un pezzo dell'EP, magari. Sì, ok. Va bene. Allora facciamo. Presento l'attuale. Lo presento io. Sì. Parole a metà. Questo è un pezzo. Il pezzo forse più tranquillo dell'EP. Una ballata che, diciamo, è stata un pochino stravolta con l'arrivo di Mauro, che ci ha messo un po' del suo nelle chitarre, rendendolo un pochino più interessante. Quindi è diventato uno dei nostri pezzi preferiti. Vediamo anche che, insomma, ha riscontro. Sono molto soddisfatto del lavoro. Sì. Quindi il merito è tutto tuo. Per una volta ci hai preso. Per una volta ci hai preso. Sì, no, ogni tanto sì. Sono sempre molto gentili, mi pare, nei tuoi confronti. Ci vogliamo bene. Molto bene, ho sentito, molto bene. È una cosa generale. Soprattutto Eros gli vogliamo bene. Esatto, tantissimo. Esatto, tantissimo. Ecco, allora dal vivo, parole a metà. Ancora accanto a me. bellissima tu, ancora accanto a me. Sì, è un pezzo molto bello, molto accattivante. A me è piaciuto molto il ricamo che ha dato Mauro, visto che Mauro ha dato la spinta per colorarlo in una certa maniera. E effettivamente prende immediatamente anche il ritornello è una cosa molto azzeccata, perché fare il ritornello azzeccato non è una cosa semplice, ci si deve pensare, perché non deve essere banale, non deve essere banale, esattamente quello è l'importante, non deve essere banale, e secondo me questo non era affatto banale. Grazie. Immediatamente dava un certo, sì, entravi subito nel giro, e quello è importante. Se uno entra subito nel giro, secondo me è un pezzo che viene anche canticchiato dei vostri concerti, questo sì. È quello che vorrei, sono quelli più gettonati. Vuol dire che ha preso subito. Sì, tra l'altro aneddoto. Dimmi. Che riportiamo fresco da sabato. Quindi, dove siete stati a suonare sabato? Siamo stati a suonare in un piccolissimo paese lì vicino a noi, tra l'altro. Vabbè, le premesse non erano delle migliori, perché il posto non sembrava proprio adatto a fare un live, insomma. Però bisogna sempre suonare dappertutto. Bisogna sempre suonare, però la sorpresa è stata che eravamo in questo piccolo tendone che poi si è riempito. Bene. La gente, che in gran parte non conoscevamo, tra l'altro, partecipe molto, proprio ascoltava, interessata, applaudiva, e qualcuno anche che io pensavo fossero parenti di Stefano, invece no. Assolutamente no. Ha cantato il ritornello sia di Parole a metà che di Quello che vorrei, poi magari qualche altro. Ma... E magari ascoltate al momento, quindi... Certo, quindi l'hai recepito immediatamente. Tempo di imparare lì le parole. Lì è un po' stata la sorpresa, perché non è una cosa che capita spesso. Ed è bello quando succede, specialmente in una serata così, che parte magari con... delle aspettative non molto alte, poi invece si trasforma in un live praticamente perfetto per noi, perché c'era tutto, la situazione, gente, eravamo in acustico anche lì, quindi un acustico molto intima, come siete stasera, come oppure stasera, con qualche variazione. Beh, Stefano aveva la batteria, teneva un po' più il ritmo e basta, per il resto eravamo piacevolmente colpiti e siamo rimasti davvero senza parole. Alla fine anche gente che ha chiesto l'EP, quindi insomma, bello, interessante questo, positivo, grande soddisfazione. Ci fa capire Dopo tanti sforzi, che lavoro paga, esatto. Esattamente. Poi una cosa positiva che bisogna sottolineare, che bisogna suonare, cioè voi avete fatto tanti concerti, siete dati spesso e volentieri a suonare, perché suonare serve, perché bisogna farsi sentire, è tutto, c'è poco da fare. Il disco è una bella cosa, ma la gente deve sentire com'è la band, c'è poco da fare, quella è l'essenza del rock, secondo me, da sempre. Anche perché se la band è un pochino capace, il live è anche meglio del disco. Chiaro. Ah sì. Quindi adesso noi stasera siamo in formazione ridotta, diciamo, a livello sonoro, però l'impatto dal vivo di questi pezzi suonati in elettrico è più grande ancora che sul disco. E quindi indice che un pochino il nostro mestiere lo sappiamo fare, insomma, ecco. Ed è bello vedere, anche sentire gente che dice: ma ho ascoltato il disco, sì, è piaciuto, però insomma, ma dal vivo, però, ragazzi, che botta. Io penso che un nostro grande pregio, poi siete liberi di smentirmi subito, hai torto, tu non hai facoltà di parlare. Grazie. No, è che comunque non siamo mai contenti, nel senso, cerchiamo sempre di migliorarci, e quindi, bello, insomma, questo. Sì, ho detto una cosa sbagliata. No, giusto, vai avanti, giusto. Magari volevo, ti interrompiamo volevo dopo. Precisare. No, volevo dire solo questo. Ciao. Che a tal proposito, vado a casa. Sempre in ottica del miglioramento continuo, abbiamo un po' cambiato metodo anche le prove. Adesso registriamo sempre tutto e poi riascoltiamo. E sentiamo subito le idee come, come girano, come e soprattutto girano. Si scoprono anche delle sorprese, magari cose che pensavamo funzionassero benissimo, poi le riascoltiamo registrate e ecco lì che invece magari zoppica oppure c'è da migliorare. Chi è che scrive principalmente i testi della band? Sempre tu, Eros? Sempre io. Ma come mi viene spontaneo quindi chiederti come nascono queste cose? Sono esperienze di vita tue? Allora, qui inizieranno subito a sfottermi perché praticamente, ma diciamo che sono stato un po' sfortunato col gentil sesso. E allora la roba più banale che uno poteva dire. Esatto, beh, ho riversato tutta la frustrazione in queste canzoni. Cioè, potevi inventarti, non lo so, un viaggio mistico, sei andato in India, non lo so. Non ha fatto viaggio. Sono stato mollato. Sì. Insomma, reagisco così, è già qualcosa, altrimenti non ci sarebbe questo gruppo. Quindi sono esperienze tue, insomma, sì, sì. Di vita. Letizia, non sentire, mi raccomando. Sto scrivendo che pezzi dopo. Ne abbiamo abbastanza di pezzi. No, lascio intervenire loro perché sicuramente avranno qualcos'altro da dire. E invece la musica? Anche. Per quindi, quanto riguarda come dicevo, anche, cioè, aspetta, adesso, voglio dire. Per quanto riguarda accordi e melodia e testi, quindi parole, come dicevo, le porto io. Poi gli arrangiamenti li vediamo insieme. Soprattutto Mauro che... No, non soprattutto, se no, li vogliamo insieme. No, beh, ma è chiaro, soprattutto Mauro perché vorrei spendere una parola per il nostro chitarrista. Sì, che formazione avevi Mauro prima che, tra di arrivare? Beh, da lui è insegnante di chitarra. E quello è importante. Sì, diciamo che io come estrazione proprio mia, come questo, genere, sono hard rock. Sei un metalaro? Per No, hard rock. Che non confondiamo. Sì, no. Cioè, il metalaro sono io. Ah, il metalaro sei esatto. Te. Vedi come che risvolti, perché i metallari o gli hard rockettari, c'erano sempre dei pezzi melodici nei loro pezzi. Ah beh, certo. Assolutamente, no, anche pezzi molto molto belli. Una piccola parentesi a quello che state dicendo, c'è un'ascoltatrice che ci fa sapere che questa ultima canzone che avete fatto, cioè Parole a metà, dice mi ha preso molto, è un modo di ottimizzare le esperienze, mi permetto di dirvelo. Grazie, grazie. Grazie. Grazie. Allora, spezziamo una lancia a favore di Eros. Grazie, grazie. Esatto. No, dicevi che tu per dire. C'era anche Gilles, Maurizio, che sì, vai Gilles. Beh, allora, lasciamo finire Mauro per parlare delle sue esperienze e poi Gilles interviene. Sì, quindi dicevo hard rock, quindi anni 80, insomma, Europe, Bon Jovi, Europe. Banale, insomma. Io non dico niente, non ho nessuna impressione sugli Europe, perché secondo me ha fatto un solo pezzo. Ma certo, no, diciamo che il primo gruppo con cui sono cresciuto veramente sono i Guns N' Roses. È tutta quindi un'altra cosa. Proprio, esatto. Oddio. No, per carità, hai scelto gli Europe. Sono in concerto a Padova fra 10 giorni. Ah, parlava vero, di vero. Europe. Serve una band di spalle, di spalle. Europe, volentieri. Andiamo noi, vediamo quei tastieroni. No. Dicono però, io non l'ho sentito il disco che hanno fatto. Tutti ricordano solo un pezzo. Però, chiaro. Musicalmente, non sono così carta pecoriti come il pezzo che li hanno fatti conoscere in tutto il mondo. Sono un po' diversi, leggermente diversi. E ringraziando il Dio sono leggermente diversi. Sì, sì, ma è vero. Sì, sì. Tu li conosci meglio. Dico, io ho avuto vari gruppi come influenze, approfonditi proprio come ascolto. Ho fatto più, su altro. Gli Europe li conoscevo, ma marginalmente. Cioè, certo. Questa l'ho suonata un paio di volte, però. Gili, cosa dovevi dire? Sì, io volevo chiedere sempre una cosa ai ragazzi. A parte che prima Maurizio si parlava un po' anche della musica di questi ragazzi, di là in prima della trasmissione, e dicevo già che la loro musica prende. Esatto. E questa sera ascoltandoli anche in live è solo una conferma, che dici Maurizio? Cioè, certo, è una cosa, non è semplice prendere immediatamente chi ascolta, per esempio Gira, la prima volta ha sentito i vostri pezzi, li ho sentiti chiaramente precedentemente più di una volta, però ha preso immediatamente lui che non li aveva mai sentiti, vuol dire che c'è qualcosa che avete costruito per attirare l'attenzione della gente, ma in senso positivo, assolutamente positivo. Volevo chiedervi una cosa ragazzi, io guardo la vostra copertina, di solito un gruppo rock si presenta con dei brani, come minimo uno o due, se non a volte addirittura tutto con un testo in inglese. sì. Voi avete fatto una scelta, non so più all'inglese perché... E poi volevo chiedervi anche un'altra cosa, così facciamo tutt'uno. È un EP, 6 brani. Prima sentivo Eros parlare che tu scrivi canzoni da tanto tempo, quindi sì, in teoria avresti Di materiale ce n'è come minimo per 2 album. Ecco, quindi anche spiegare come mai avete fatto questa scelta di proporre solo 6 brani. Beh, 6 brani giusto per tastare il terreno, perché come si parlava prima anche con il ragazzo dell'altro gruppo che ora non ricordo. Sì, quello di, con Andrea Badalamenti. Esatto. Il mercato è comunque quello. La difficoltà di entrare in un mercato con magari un album con 10 canzoni, c'è il rischio di essere proprio lasciati da parte. Sì, è vero questo. E questo nostro EP è stato fatto apposta per vedere i primi riscontri, quindi fare uno step alla volta. Sì, lasciare la porta aperta. Esatto, giusto perché comunque, per dire, noi siamo questi, però sappiate che se volete sentire di più abbiamo dei live, abbiamo immagini miglioramento notevole, potete venire a sentirci, certo. E c'è altro materiale. Certo, certo. I testi in italiano, siamo italiani. Lo so, ma non la è, cosa, è una scelta. La ricerca scelta della musica italiana, cioè per noi è il modo di esprimerci. Noi ci esprimiamo in italiano, parliamo, ci esprimiamo, abbiamo i nostri pensieri sono in italiano, quindi per forza di cose e della lingua più musicale al mondo, Sì, è il modo migliore per dire quello che proviamo, perché chiaramente io ho anche cantato in inglese, però non arriva come una cosa che senti mentre la dici. Questo è molto diverso. È rischioso, però è molto molto rischioso, perché in italiano tutti capiscono, e quindi comprendendo immediatamente tutto, sai. E infatti cerco di evitare le rime baciate. Ah, ecco, fai bene, fai bene. Si usava una volta, adesso basta. O se no, se fai se la fai alla Guccina è un'altra cosa. Sì, però. Di Francesco, familiarmente lo chiamiamo Francesco, io a una certa età lo seguo da una vita. Guccini, sì, rime baciate, ma di un certo spessore. Esatto. Ah, decisamente. Tra l'altro non so se hai visto che sta preparando un nuovo lavoro. Benissimo, mi sono molto contento e soddisfatto. Non beve più Sangiovese ma acqua minerale, ma bene. Ha smesso di fumare. E ha fatto una cosa bellissima, secondo me. Comunque volevo dire che sicuramente questo sarà un gruppo da seguire. Ah, indubbiamente. Grazie. Troppi complimenti. Grazie mille. Grazie mille. Sì, davvero. Non sappiamo se c'è l'immagine. Dalla radio non ci si vede, ma visto che siete diventati rossi, vi faccio riposare un pochino, ci ascoltiamo qualcosa dal disco? Sì, sì, va bene. Ottimo. Ok. Avete scelto Illusione. Va bene? Va bene. Benissimo. Perfetto. Okay. Soprattutto l'assolo finale. Accanto a te penso ai sogni miei, li stai vivendo insieme a me. L'illusione mia di questa notte è che non finisca mai. A me, la tua anima è vicino alla mia, solamente tu sai prendermi così, nessuno l'aveva fatto mai. accanto a te. Penso i sogni tuoi, vorrei viverli insieme a te. L'illusione mia di questa notte è che non finisca mai. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Ed eccoci ancora qui, già un'oretta se n'è andata, ragazzi, avete visto? Passa velocemente il tempo. Molto. Ci manca un po' di Sangiovese, ma insomma, altrimenti saremo in ottima compagnia questa sera. Lambrusco la prossima volta. No, la prossima volta porto il Brunello di qualche bottiglia di Brunello di Montalcino che ha una discreta scorta in cantina. E la prossima volta vi dirò anche il perché. Ci teniamo un po' di storie. Guarda che ti prendo in parola, sai, però, perché il prossimo disco lo volete presentare. Allora, ne ho 110 bottiglie. Sì. Se non lo finiamo prima, esatto, finiamo prima. No, non dovete finirlo prima. Insomma, ne tenete qualche bottiglia per noi. Dovete chiamarci presto. No, anche perché esatto. Dobbiamo fare l'album prima. Noi. Voi ci informate quando siete pronti col disco. Poi contattate Alberto e ci pensa lui, insomma, bottiglie comprese. Noi siamo abitudinari in questi live che facciamo, insomma, quasi in ogni trasmissione da tanti anni, facciamo questa domanda e il nonnetto ci tiene, quindi è giusto farlo contento, insomma. Passano gli anni, ma certi gusti. Allora, ad ognuno di voi, insomma, vi chiediamo, insomma, se andate in un'isola deserta, questa famosa richiesta, insomma, da parte nostra, da parte di un vecchio programma, se andate in un'isola deserta, dicevo, cosa vi portate come dischi? Tre a testa. Facciamo tre, io do tre, cinque, ha diminuito. No, ma così, ragazzi, dai, io, ancora io peggio. So già, vai tu allora, che devo pensare. The Color and the Shape, Foo Fighters. Ah, adesso ci fermiamo un secondo. Non si può copiare, vero? No, si può. Ci fermiamo un secondo perché hai citato i Foo Fighters. Cambia album. Come mai hai citato Foo Fighters? Qualche canzone di quel disco? Everlong, poi c'è i Johnny Park, Monkey Ranch. Cosa ti piace dei Foo Fighters? Di lui. Di lui? Di lui. Citiamo chi è lui. Lui è una macchina da soldi. Esattamente, è una macchina. Lui ha creato col rock delle canzoni pop, le mascherate. Pop, e ha fatto un successo strepitoso. È vero. Non a caso, poco tempo fa avevo una tribute band dei Foo Fighters. Ah, vedi. Non è mica facile suonare pezzi di tutta. No, è un po' difficile. Soprattutto cantarli. Esattamente. Molto, molto, molto complesso, molto arduo. Che lui proveniva sempre da quel fulgito esempio, si chiamavano i Nirvana. Sì. I Nirvana ha fatto storia prima. Esattamente. E ha continuato a farlo anche adesso. È vero. Comunque ha fatto un album. Best of You. Vero. Best. Famosissimo pezzo, famosissimo. E quindi lui praticamente ha fatto un album l'anno scorso, è stato in tour un anno e mezzo e adesso si è preso una pausa col gruppo perché ha vinto 5 Grammy. Ha venduto un sacco. Poi dimmi, Tutti quelli di ex Nirvana ci sono, sono sistemati bene. No, beh, ma a parte uno. A parte uno, ex, quello non era un ex, era in Nirvana proprio. Era lui. Era lui, esattamente. Poi, Megadeth. E qua andiamo sul pesante. Rust in Peace. Andiamo sul pesante. Non so se i nostri ascoltatori siano un po' avvezzi al sound di Megadeth. No, beh. È la musica che ho conosciuto come prima. Ma dove li hai trovati quelli? Dove li hai trovati? Dimmi. Sono i primi ascolti. A 14 anni c'è chi ascoltava i Green Day, chi ascoltava gli Offspring, e io ho ascoltato Euthanasia dei Megadeth. Quindi hai tagliato la testa al toro. Esattamente. E poi l'ultimo album che ho rispolverato tra i vinili di mio padre è Queen, il primo. Cosa dice Agostino del primo? Sai che tocchi un nervo scoperto. Lo so, lo so. Mi emozionano sempre tantissimo. Soprattutto il primo album a me è piaciuto molto. Ma è molto rock. Molto rock. Molto rock. Molto rock. Diverso. Sì, sì, sì. Distante. Non dico anni luce, ma abbastanza distante. Ha influenze delle Zeppelin. Sì, esattamente. Proprio rockettaro al 100%. Però ha un fascino incredibile. Come tuo papà lo aveva in vinile. Lo ha in vinile. Sì, sì, sì. È una cosa meravigliosa. Quello e tanti altri. Un padre rock fa sempre bene alla salute. Sì, sì, sì. Assolutamente. Non è proprio questo periodo, ma va bene lo stesso. Però, sì, sì, sì, sì, è quello un po' dopo. Questo. È quello un po' dopo. Esatto, esatto. Tocca, chi tocca adesso? A Stefano. A Stefano. Stefano. Il nostro batterista. Tamburellista, adesso si può dire, sì, così. Il tamburello. Tamburello. Ognuno lo chiama come vuole. Ecco, esatto. Il tamburello. Ma Eros mi ha rubato l'album di Foo Fighters, C'è poco. Lo metto fra parentesi. No, non si può. Vietato. Anche la parentesi. No, beh, parto subito con forse la colonna sonora della mia vita, posso dirlo. Certo. Forse è una parola grossa, però The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Wow. Sempre un disco che dà un certo fascino nonostante la centesima ristampa o altre cose di questo genere. Esatto. Perché la EMI cerca di guadagnare continuamente su questo album. A parte quello, ogni volta l'emozione è diversa. È vero. Cioè, io ricordo che l'ho ascoltato la prima volta molto giovane, a 14-15 anni, in vinile. Ecco. Vai Lale. Quello lo conosco. Vai col basso, vai. È un grande basso. Sono giù di mezzo tono. E mi ha stupito anche per intanto questa, perché è la prima canzone del rock con una metrica dispari, un 7 quarti. Questa. Ecco, vedi. Intanto. È una cosa mica da niente. Mi ha aperto proprio le vie. E poi tutto l'altro. Com'è? Fammi sentire, Alessandro. Che è una nota. Era lui il pignolo, Poi dicevi, scusa, ti ho interrotto. No, beh, ogni volta l'emozione è diversa. La prima volta sto quasi addirittura commovente, ve lo dico perché davvero. The Dark Side dei Pink, ami The Dark Side prima di tutti gli altri o The Dark Side con tutti gli altri? Dark Side e prima, anche quelli prima. Cioè quelli psichedelici, quelli... Sì, anche Sid Barrett. Sei barrettiano. Anche, sì. Anche sì, sì. Fa molto piacere anche Barrettiano e Gilmuriano. Anche Gilmuriano. Beh, Barrett e Gilmour è un, sì, sì, sono un collegamento totale, anche perché come tutti i fan dei Pink sanno, Gilmour ha sostituito Barrett praticamente. Sì, sì. Quello praticamente sì, perché non ce la faceva più. Però Barrett è un discorso sé, secondo me. Sì, sono d'accordo. Barrett è sempre che alleggia, è sempre alleggiato, sì, durante tutti i dischi di Pink, anche se non è stato citato, o è stato citato pesantemente in senso positivo. Vorrei che tu fossi qui, tutti questi vi riferimenti c'era sempre. Bart, dobbiamo dire ragazzi, Bart, se non c'erano Bart non c'erano i Pink Floyd. Esatto, era l'anima. Era l'anima. Dopo l'anima un po' troppo è andata un po' troppo. E poi Stefano? Poi tiro fuori un album italiano. Devo, perché è una band a cui mi sono ispirato, che forse è la prima rock band italiana che mi è piaciuta all'inizio. Terremoto di Litfiba. Ecco. Non siete soddisfatti? Sì, siete soddisfatti? No, qualcuno dice no, qualcuno dice sì. Non ricordiamo gli FIBA di adesso. Quelli non esistono più. E neanche gli ultimi prima di sciogliersi. Sì, ormai non erano fuori. Erano mandati. Fino lui andava in una parte e l'altro andava in un'altra fino parte. A terremoto. Poi. Fino a terremoto, poi le cose. Ma i primi, sì, i primi erano diversi. I primi erano alternativi al 100%. No, quell'album sì, mi ricordo che l'ho consumato proprio. Chi tocca adesso? È il nostro. Manca ancora il terzo. Vai. Beh, essendo batterista, sono sempre ispirato a John Bonham, a Bonzo, e metto le Zeppelin 4. Fai la solo finale di Stairway to Heaven. incredibile. Ah, avessi una batteria potrei farlo. Esatto. Bozo, Bozo e Bozo si può fare. Scelgo le Zeppelin 4. Benissimo, un disco epocale. Story to Heaven, rock and roll. Sì, un po' di tutto. Quell'inizio. Questo è solo l'inizio. Ah, un meraviglioso inizio che si sta. Non possiamo. Ecco, qualcuno dice: perché lo tagliamo? Non si può tagliare 9 minuti e 12, deve stare così. Quelle non sono cose, non si possono tagliare. Come si fa a tagliare un pezzo di Led Zeppelin? No. Eresia. Come, è un'eresia totale. 9 minuti e 12, basta. Bonzo ha deciso che l'assolo si faceva la parte finale. E deve essere l'assolo, deve farsi sentire. È la parte integrante di un capolavoro simile. Sì. È poco da fare. A lei, caro Vado io bassista. Allora, va bene. Qui vabbè, la scelta è difficile, come non è stata per tutti. Partiamo con Californication, del Red Hot Chili Peppers. Bellissimo, un disco bellissimo. Ma questo soprattutto al di là poi con groove spaventoso del gusto musicale che ho sviluppato poi negli anni, però il disco che mi ha fatto iniziare a suonare, perché io prima il basso non sapevo neanche cosa esistesse. Eccolo qua. Ti martella dentro. Ti martella dentro. Qui ho imparato che il basso fa anche quel suono lì, quindi vabbè. È un album che dovevo citare assolutamente. Al primo posto. Al secondo mettiamo Robin Ford con Talk to Your Daughter. Ah, Robin Ford è uno dei pochissimi che ha citato nei nostri 10 anni di transumanza. Robin Ford, come mai Robin Ford? Ma non Robin Ford in particolare, perché non è che mi abbia mai entusiasmato tantissimo, ma quel disco lo trovo veramente eccezionale. Ho capito. Cioè, quello è il blues, sì, proprio all'ennesima potenza, con un tiro tremendo. È un album che non c'è un pezzo. Anche se non è un bluesman nel vero senso del termine, Robin Ford. Anche in quel disco lì c'è anche tenente un pochino rock, nel senso non è. C'è un po' di contaminazione. Sì, è proprio per quello forse è un disco speciale. Mm-hmm, perché magari il blues classico, insomma, è anche più duro da ascoltare. Questo invece è un album che va via benissimo. Poi al terzo posto non si può non mettere Heavy Weather, The Weather Report. Bravo, ecco. Mi complimento con te, è un disco importantissimo, citato poche volte. Il Weather Report è sempre stato un gruppo simbolo per certo jazz, ma non è un jazz, non si può neanche definire la musica di Weather Report. No, viene definita fusion perché, per dire tutto e niente, c'è un miscuglio di generi che solo loro potevano fare. Ecco, eccolo qua. Tanto per dirne uno, per dire uno. Birdland, questo vabbè è il primo disco del genere che è arrivato ai vertici delle classifiche di vendita, quindi certo. Comunque sono riusciti a coniugare una musica molto difficile da proporre con una certa facilità di ascolto, e lì il genio, comunque, secondo me. Ma erano dei musicisti mostruosi. Perché il musicista bravo che fa virtuosismi su virtuosismi e nessuno lo capisce ha un limite, questi invece, facendo cose che per i più sono impossibili, esattamente, ecco, riescono a farti ascoltare, a farti piacere. Quindi questo è il vero genio. Poi in più c'era un signore al basso che vabbè, non dico neanche il nome. Non esistono più. Nessuno. A quel livello non ce ne sono più. No, non ce ne sono più. Non verrebbero neanche apprezzati forse questo livello, però musicisti così veramente. A noi mancano. A noi amanti della musica mancano. Nella mia discografia in vinile, io ho un solo disco dei Weather, si chiama Sing Body Electric. Sing, perché secondo me il rock e il jazz si è sposato felicemente su quel disco là. È un matrimonio perfetto. Quello è un disco strepitoso che. Chi non l'avesse sentito, ma invito a riscoprire, si trova adesso in fase economica, si può acquistare in fase economica, un disco meraviglioso, perché se uno ama il jazz e se ama il rock, è una fusione totale. Totale, sì. E Sing the Body of Betty è un grandissimo disco. Tocca a Mauro. Vai, tocca a te, Mauro. Allora, sui primi due non ho dubbi, al terzo posto ho tre dischi, però comunque Appetite for Destruction dei Guns N' Roses. I Guns, ti vedo, sì. Come mai Appetite for Destruction, l'esplosione totale di Guns? Perché quando ho visto per la prima volta, che tra l'altro era il tour di un altro disco, però... Che forza che avevano, sì, cioè, era distruttiva anche come distruggevano, esatto, gli aerei. Quando, loro erano perfetti per distruggere gli aerei. Appena ho sentito la chitarra di Slash, proprio insomma, non ho parole, non riesco a descrivere l'emozione provata la prima volta. E quindi insomma, proprio sono cresciuto con una loro, forza proprio distruttiva, esatto. Sì, proprio era un rock. Per alcuni pezzi anche commerciale, nel senso sì, ma commerciale, però però con gli attributi e dal vivo facevano delle cose incredibili, infatti, incredibili. Assolutamente. Poi What's the Story Morning Glory degli Oasis, abbiamo citati all'inizio di programma. Perché? Ma perché i fratelli Gallagher, secondo te, perché ma, i fratelli Gallagher hanno deciso di rompere una cosa un giocattolo così bello? Perché è risaputo, no, a parte quello, cioè, penso che non si possano più vedere, o forse non ma si secondo mai me vedere. Qualcuno poi dice, doveva succedere. Qualcuno dice può darsi, qualcuno dice ripete ancora. Fra qualche anno le cose possono cambiare, ma probabilmente sì, cioè sono tornati insieme gruppi tipo vabbè i Police, hanno fatto un tour qualche anno fa. Vabbè. La colonna sonora di tutto il liceo, cioè, Decisamente sì. Sono bravi a fare queste robe. Sono riusciti nel 2008 per il Live Aid a far suonare insieme i Pink Floyd, cioè David Gilmour e Roger Waters, cioè, che non si potevano vedere. Sì. Quindi può darsi che ricapiti, anche se il mio modesto parere è che comunque gli Oasis erano solo Noel Gallagher. Sì, sono d'accordo comunque con te. Però c'è anche la voce. Sì, anche se a me personalmente piace di più la voce di Noel che quella di Liam. Sì, esattamente, però qualcuno... Ci sono dei contrastanti. Per carità. Cioè. C'era Beatles e Rolling Stone. Duran Duran e Spandau Ballet e Oasis e Blur. Certo, assolutamente. Il dualismo totale c'è sempre stato. Esatto. E al terzo posto, dicevo, tre dischi che non so quale scegliere, che sono The Wall dei Pink Floyd. Toglilo perché Pink Floyd l'ha detto lui. Ma tagli le gambe su, va bene. Sì. Talking Book di Stevie Wonder e Band of Gypsies di Jimi Hendrix. È una bella scelta. Guarda, tu che sei un chitarrista, dovresti optare per Jimmy. Devo scegliere Jimmy perché poi essendo mancino come lui. Appunto. Insomma, esattamente. No, direi che Jimmy è stato l'apice di tutto. Cosa dici tu che sei un chitarrista che... Jimmy, allora dimmi spiegami in termini molto semplici per chi ascolta. Allora, a mio modesto parere, Band of Gypsies fa capire che Jimi Hendrix ha percorso di 20 anni l'heavy metal. Perché se voi sentite come suona, il modo in cui suona in quel disco lì è mancino, Jimmy è mancino, assolutamente. La forza che riesce a trasmettere alla chitarra per me è impareggiabile. Poi c'è quell'aneddoto famoso che quando lui era piccolino, forse lo sapete, smontò una radio per capire dove veniva fuori il suono della chitarra. Da quello ha detto: oh, suono la chitarra. No, è vero. E quindi, cioè, genio assoluto, ovviamente genio esregolatezza, però purtroppo insomma, è così. Nessuno che ha scelto un disco dei Vibrida, però come mai? Perché ancora non c'è. No, non c'è. Non dirlo. È che ce ne sono talmente tanti che dirne uno è riduttivo. Però adesso ci fate sentire qualcosa di voi. Certo. Abbiamo chiacchierato anche troppo e quindi giusto siete qui per questo. Cosa ci proponete? Allora, il prossimo brano è Cambio di pensiero. Che dire? Ancora un'altra donna. Allora non diciamo niente, esatto, e suoniamo. Suoniamola, però dai, a quella grinta, quell'energia per dire ok, adesso è il momento di fare spazio per proseguire, per andare avanti. Ok. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Comincio a vivere senza di te, così, senza fingere che poi tutto sia più facile. Il tempo scorre lento sopra di noi, mi scopro più contento. Anche se non vuoi, dando un senso a questo cielo che non crolla giù. Ora cambio il mio pensiero, non ci sei più tu. libertà dentro di me. Così, senza scegliere, che poi tutto arriverà da sé. Il tempo scorre lento sopra di noi. Mi scopro più contento, anche se non vuoi, dando un senso a questo cielo che non crolla giù. Ora cambio il mio pensiero, non ci sei più tu. Il tempo scorre lento sopra di noi. Mi scopro più contento, anche se non vuoi. Il mio cuore non si è arreso, volerà più su. Ora cambio il mio pensiero, non ci sei più tu, dando un senso a questo cielo che non crolla giù. Ora cambio il mio pensiero, non ci sei più. Molto vivace, a me è piaciuto particolarmente, dava molto movimento, molto brio, quindi dal vivo è stato decisamente un pezzo molto tirato. Io visto Mauro che faceva, ricamava il pezzo alla Hendrix con la chitarra acustica stavolta, però lo faceva duro, cioè era un pezzo, non dico duro nel senso cattivo, però molto pompato nel senso positivo, cioè molto ritmico, molto di molto movimento, secondo me. Era, cosa dici? Sì, è un brano che mi ha ispirato ascoltando una canzone abbastanza recente, degli anni 2000, e però ho voluto dargli questa impronta, anche grazie a loro, per proprio far sentire quello stato d'animo, dire adesso basta, mi hai stufato. Hai stufato, cioè tagliamo, andiamo avanti, passiamo oltre. E i ragazzi hanno rispecchiato egregiamente quello che pensavo. Sì, il pezzo richiamava questi giri, queste ritmiche, quindi è stato anche facile in questo caso. Poi Eros ha detto una cosa che ha detto precedentemente all'inizio di trasmissione: questo è fermate e ripartenze, questo allargare e ristringere, e questo era proprio un episodio, cioè proprio un esempio tangente, tangibile, si può dire, sì. Dell'idea tua. Esatto, il tutto e il niente all'interno di un'emozione, diciamo, giusto per essere poetici. Ma che bravo. Grazie. Bravo. Io farei un bis subito, visto che siete ancora... Sì, dai, che siete caldi. Caldi. Siamo caldi tutti qua dentro. Recuperiamo. Allora, sì. Questa vado io a sorpresa. No, davvero? No. Però l'inizio. No. Questo pezzo si chiama Aspettando un gesto, che abbiamo preso in prestito da quello che è il nostro fonico. Ci è piaciuto, diciamo. Quindi l'ha scritto il nostro fonico. L'ha scritto lui e noi l'abbiamo un pochino riarrangiato. Dobbiamo citarlo, il nostro fonico. Gabriele Pavani. Perfetto. Ciao Tonio. Ciao Tonio Service, Carbonara, esatto. Di Po, lui fa service audio, luci e tutto quanto. Facciamo un po' di pubblicità. Mi pare giusto. Esatto. Dopo mi paghi, insomma. Ci paghi. Separata sede. Ho parlato io. Okay. Si chiama allora la canzone? La canzone si chiama Aspettando un gesto, farà parte del prossimo disco, perché questa ormai che verrete presentare qui. Però la presentate dal vivo questa spesso? È la prima volta? Dal vivo in una veste diversa, perché qui siamo stati abbastanza pesantini con gli effetti, per cui anche sul basso. Soprattutto lui. Sì. Ci ho messo per gli addetti ai lavori un Big Muff e un Bass Ball. Cioè, cosa vuol dire praticamente? praticamente è un fase, un filtro di sviluppo che dà un suono tipo sintetizzato. Ah, alla fine, come risultato, è una cosa abbastanza violenta. E però, più un pedale ego per lui. Sì, va bene. Quindi l'avete proprio sconvolto. Sto sì, pezzo. L'abbiamo un po' così. Abbiamo deciso di dare un taglio molto moderno, ecco. Molto new wave estrema. Sì. Beh, insomma, non proprio new wave estrema, però insomma, dai. Dai. Un tocco, ecco. E non potete immaginare. La soddisfazione di Alessandro quando mette sì, quegli sì, effetti, perché comunque gli effetti sul basso sono una cosa, no, è vero. E gli viene un sorriso a 64 denti, 8000 denti, 8000, 1000. Bene, aspettando un gesto. Blu Radio Veneto. Ti prego, toglimi il respiro, sarai tu l'artefice del mio destino, regalami un sorriso, basta che sia vero, riconosco che il buio non è sempre nero, no, non esitare, aspettando un gesto, solo movimento, riesco già a sentire il vuoto che va dell'anima, aspettando questo, devi farlo adesso, non potrà far male come il più bel giorno speso qui. Ti prego, che faccio da solo, sarò io alla fine di tutti i problemi, regalami un ricordo, basta che sia eterno, sforzati di credere che è tutto vero, no, non rifiutare, aspettando un gesto, solo movimento, riesco già a sentire il vuoto che invade l'anima, aspettando questo, devi farlo adesso, non potrà far male come il più bel giorno speso qui, sto aspettando un gesto, solo movimento, riesco già a sentire il vuoto che invade l'anima, aspettando questo, devi farlo adesso, non potrà far male come il più bel giorno speso qui. Ibrida a Blu Radio Veneto con Agostino, con Maurizio, con Gilles, ma soprattutto con la loro musica, questo disco che si chiama come loro, però questa canzone, come ci hanno poc'anzi detto, non fa parte del disco. Come si chiamerà a proposito del prossimo disco? L'avete già deciso? Bella domanda. Dobbiamo ancora decidere che canzoni mettere, però faremo insomma, Vibrida 2, Vibrida 3. Sì, Vibrida 2 in stile Led Zeppelin, proprio fino a 73 anni, quindi arriveremo a Vibrida 40. come l'enciclopedia Treccani, no, cioè, appena lo decidiamo ve lo diciamo, certo. Chiaro. Ci sono due chiavi di lettura secondo me in questo pezzo, adesso ve lo dico, vediamo se siete d'accordo. La prima chiave di lettura sono i cori, che sono molto pronunciati stavolta e danno uno stacco, cioè fermano una determinata melodia che prosegue, lo fermano in una certa maniera, rendendolo più dolce il pezzo, mentre il tuo cantato in questo pezzo non è dolce, è un po' aggressivo a mio parere. Sì. A parte che mi sono cimentato in questo brano perché non è non mia è tuo. Composizione, quindi l'ho adattato, però spero in degno modo. No, cioè, sicuramente degno. Dovremmo chiedere all'autore. Dovremmo chiedere all'autore, ma soprattutto anche a Alessandro, perché in passato aveva già portato questo brano live con un'altra formazione. Sì, è molto diverso come metrica rispetto al mio modo di scrivere e di cantare. E prevedeva proprio un approccio di questo tipo. Mm. Le melodie e i cori sono, diciamo, una prerogativa che adesso non facciamo ancora live, soprattutto per gli acustici, perché sarebbero molto impegnativi. Però nel disco si sentono alcuni cori, anche perché ho imparato, sempre con esperienze di altri gruppi, a fare cori su canzoni. Di conseguenza ho apportato un piccolo marchio su questo brano con una melodia vocale. Sì, io me lo immagino, cioè io dal vivo non l'ho mai sentito, ma me lo immagino, con gli strumenti elettrici parlo io, sì. Me lo immagino, il cantato è abbastanza mosso, velocizzato il tuo, poi la melodia, l'intreso del coro ferma questo movimento e poi riprende quel cantato, e il basso che lui fa è un basso molto accentuato, esatto. Che distrugge la melodia stessa. Sì, lo ragiono così, lo penso così, lo immagino così. Ed è proprio così, cioè è molto invadente il basso nella strofa, qua ovviamente non abbiamo potuto... Certo, e anche questo movimento del tamburello che fa lui, non è un movimento a caso, è un movimento ipnotico, ripetitivo, vuol dire che la batteria ipnoticamente, ripetitivamente, deve dare un certo senso al pezzo. Così come il basso che fa... Esattamente, è leggermente diverso dal vostro standard, ma volutamente avete cercato di riprenderlo nel vostro standard, però con determinati aggiustamenti, con determinato impulso sonoro, questo voglio dire. Sì, tra l'altro il coro serve comunque ad aprire l'episodio che è il ritornello, sì. È la cosa che, nonostante il brano sia energico e molto ritmato, il ritornello rimane in testa. Sì, è vero, il coro dà proprio quell'essenza là. La melodia in quel caso serve proprio per quel motivo, per mantenere in testa la canzone. Bene, abbiamo deciso che va bene così. Abbiamo dato una chiave di lettura, delle due chiavi di lettura del pezzo, secondo me positive. La gente deve sentire, deve ascoltare, deve capire soprattutto come è nata l'idea. Io la penso così. È importante, sì. Deve sentire, non vedere. Deve vedere. Qui non siamo... siamo in radio. Esatto. C'è un famoso disco, un famoso pezzo, Video Killed the Radio Star. Non è vero, il video non ha ucciso la star, la musica. Continua, fortunatamente. E quello è bello. Possiamo definirlo un rock, il vostro un rock melodico sentimentale. Quindi Sì, possiamo definirlo così. Esatto. Sì. Volevo chiedervi una cosa, ragazzi. Voi fino ad oggi, anche perché sentivo prima Eros che diceva cerchiamo di evitare per il momento di suonare live in acustico, ma fino ad oggi, anche tenendo conto che siete giovani come gruppo, oltretutto, sì. Cosa siete riusciti a fare fino ad oggi, dal 2010 ad oggi, per promuovere la vostra musica? Prego, maestro. Allora, nell'arco del fine 2010 e per tutto il 2011 siamo riusciti a fare un buon numero di live, all'incirca 25. Una ventina di live in locali sempre di Mantova, province limitrofe, dove per gioco forza comunque ci siamo esibiti in acustico. Sì. Perché a noi l'acustico piace come situazione, anche perché comunque un musicista si misura con una situazione in cui quello che fai si sente. Esatto, e l'errorino esatto. Si sente, quindi serve a migliorarsi. Serve a migliorare, noi apprezziamo molto, ecco, la situazione acustica e ci piace. Però la cosa interessante è che comunque siamo riusciti a fare un buon numero di live, nonostante portassimo fuori brani inediti. Locali ci hanno dato fiducia, e oltre a quelli chiaramente abbiamo cercato le manifestazioni dove potevamo dare spazio anche al nostro lato elettrico, soprattutto. Sì, siamo andati la scorsa estate alla Notte Rosa, dove che eravamo? A Ravenna. Marina di Ravenna, alla Notte Rosa, una situazione molto bella. Una due poi giorni abbiamo partecipato a Fammi Sentire la Voce, contest di Radio, di Radio Bruno al Vox di Nonantola, e insomma situazioni anche con altri gruppi in cui potessimo esprimerci. Però da dire che le soddisfazioni più grosse sono arrivate dai locali. Sì, voi... e questo ci la fa ben sperare, ecco. Certo, voi non avete provato ancora l'esperienza di suonare in qualche manifestazione da strada? Sì, abbiamo suonato ai Baskers a Bondeno, provincia di Ferrara, e poi altre? No, quella in particolare. Sì, quella è l'unica di strada. Di strada, sì, perché esatto. Nel mio piccolo ritengo anche che questa sia un'esperienza importante, sì, perché sì, già sì, da lì da lì si capisce anche la gente se riesce ad apprezzare la vostra, certo, musica oppure no. Certo, sì, è una cosa importante. Comunque io penso anche che stasera non c'è la batteria, quindi penso alla vostra musica anche con la batteria. Deve avere un effetto ancora più devastante, ma devastante nel senso buono. Sì. Questo, finora il pubblico ci ha detto questo, ecco, quindi siamo supportati in quello che diciamo. Lasciate lo spazio al batterista quando vuol fare qualche assolo, oppure come si dice, tagliamo le gambe. Si prende lui i suoi spazi. I tuoi spazi. Al momento non ho fatto ancora assoli, però me li prenderò i miei spazi. Ecco, vedremo. Vi facciamo riposare un pochino, ci ascoltiamo ancora un pezzo dal disco. Sì, certo. Ho scelto Negli occhi tuoi. Ottimo, molto bello questo brano. Vedi che ho scelto bene allora. Sì, scelto bene su. Vibri da Blu Radio Veneto, Negli occhi tuoi. Sottile confine tra il sogno e la realtà. Costante pensiero dentro l'anima. Prendere o lasciare, tu sei qui, mi vuoi insegnare la semplicità di amare, sei riuscita ad abbassare le difese del mio cuore, sei riuscita a risvegliare questo bimbo dal torpore, la paura del rifiuto mi ha portato a diventare questo mondo sconosciuto per proteggermi dal mare. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Eccoci qui per l'ultima parte di questo live di questa sera qui a Blu Radio Veneto con Rock Wave, ma soprattutto con i Vibrida e la loro musica. Mancano 15 minuti, abbiamo ancora il tempo per ascoltare forse un paio di canzoni, ragazzi. Magari ce ne fate una subito e poi torniamo in studio e parliamo per le ultime cosine. E poi ci salutiamo. Sì, Agostino, Mauro, parliamo un momento del pezzo, 10 secondi del pezzo che abbiamo sentito, sì, adesso, sì, che ha una chiave di lettura dovuta al punk. All'inizio era punk, e poi giustamente Mauro mi faceva notare c'è una parte centrale, cioè i Pink Floyd, cioè, pardon, i Beach Boys che si accavallano con i Clash, praticamente. Facciamo una cosa di questo spiaggia, genere. Dai, un po' da spiaggia. Il coro è molto, sì, Beach Boys. E poi, però, l'inizio è punk, assolutamente. Sì, no, vabbè, no, vabbè, ma io voglio appunto svelare una chicca. Oh, signor. Qua si sente molto l'ascolto del grunge e dell'alternative che abbiamo citato. Cioè il punk e le melodie assieme che si confondono. Sì, sì. Si infondono, soprattutto gruppi che abbiamo citato. Sì, quindi. Molti gruppi. Però Beach Boy non li avevi mai citati, però. No, beh, era per farti capire... Sì, sì, il discorso di spiaggia, esatto, di coesione. Esatto. Sì, io l'ho sempre visto come pezzo estivo. Mm. No? Sì, un po' surf. Un po' surf. Un po', esatto. Sempre, ma l'inizio è punketaro, c'è poco da fare. Ah, certo. Ok, cosa suoniamo, ragazzi, allora? Ragazzi, allora, vabbè, qua democraticamente decido io, esatto, quindi un pezzo, esatto, dell'EP che non abbiamo ascoltato, per rimanere un po' sulle sonorità più... Ivi? Un po' più cattive, sì, si chiama Brucio nel vento. Sì, credo, ecco, vedo, sì, che siamo tutti la ciurma approva. Approviamo. Cui... Tu sai che io sono sempre d'accordo con te. Quando volete potete partire. Ok. Partite pure. Prego. Soffio di calore dentro, tanta voglia di tornare, vento, parti tossi del mio cuore dietro, a un tempo che non so fermare, brucio nel vento, lascio ogni cosa dietro me. Brucio nel vento, solo il mio passo seguirà me. Passo, pensiero che brucia dentro di me, pagliaccio. Tristezza dorme con me selvaggio, è un incendio brucia per te, faccio, un sogno che non è più con me, brucio nel vento, lascio ogni cosa dietro me, brucio nel vento, solo il mio passo seguirà me, brucio nel vento. Brucio nel vento, solo il mio passo seguirà me. Brucio nel vento. Perfetto, questo non era un pezzo punk, però come minutaccio poteva essere un pezzo punk, assolutamente. Sì, veloce, sì, sì, sì. E di presa rapida. Anche poi ascoltato sul disco un po', insomma, si avvicina. Si avvicina, cioè velocissimo, cioè deve subito stare nella mente, immediatamente, quello che serve praticamente. Sì, poi c'è l'intro di batteria, insomma. Esatto. Sì. Vedi. Questa è la versione del disco. È la versione del disco, ovviamente. Qua il batterista, il tamburello. Io sono curioso, che rapporto avete con i vostri fans durante i concerti? Fans. Durante i concerti, quantomeno, insomma. Cioè, vuoi dire coi parenti, praticamente. Bella domanda. No, qua torniamo un attimino seri, ecco. No, è una domanda difficile perché bisogna essere realisti, dire la verità, cioè i fan, proprio fans, sono pochi, perché è difficile, perché siamo ancora sconosciuti, e quindi diciamo però che suonando fuori ci stiamo creando il nostro piccolo giro di persone che ci seguono, quindi vedere che ogni data comunque qualcuno ritorna. Si approccia alla nostra musica, ritorna, ci manda l'amicizia su Facebook, ascolta i pezzi e ci dice anche boh, quello lì mi piace, quello non mi piace. Quindi se prendiamo un rapporto con i fan che ci stiamo creando, direi buono anche un rapporto di interazione, insomma, ecco, perché accettiamo complimenti, critiche e tutto quanto. Vedremo poi, insomma, andando avanti piano piano di sviluppare sempre meglio il rapporto e di avere sempre più fan. Certo. Allora ve lo auguriamo, insomma. Grazie. Prossimo concerto quando ce l'avete. Prossimo concerto, al momento date in programma non ce ne sono. Non ce ne sono per proprio anche un po' per scelta. Sì, scelta, esatto, perché che... vogliamo lavorare su questi pezzi nuovi, quindi fino a fine anno pensavamo di lavorare in studio, ecco, e poi riprendere con i live a gennaio. C'è qualche locale così dalle nostre parti con cui siamo un po' in parola, vedremo, ecco, nel caso vi facciamo sapere, però al momento la scelta è stata quella di lavorare di più sui pezzi nuovi, anche perché da quando abbiamo intrapreso quella strada abbiamo notato un miglioramento anche nei pezzi vecchi. Sì, esatto. Più convinzione, più amalgama, che già non mancava prima, però è un lavoro questo che è necessario, ecco, sì, del momento di fare. Soprattutto dopo anche le varie formazioni, i vari cambi che abbiamo avuto, è un passo necessario questo, quello di fermarci un attimo e creare il brano definitivo che poi andrà a comporre l'album e comunque servirà a noi per avere un riscontro col pubblico, capire se abbiamo intrapreso la strada giusta. E nel prossimo album che farete, chiaramente lo proverete suonando, da detto dal prossimo anno comincerete a suonare nuovamente per proporre i pezzi. Avete una avrete qualche amico, qualche musicista, qualche ospite del vostro giro che può partecipare live con voi? Ma, amici che possono partecipare ne avremo tanti, sì, perché comunque poi quando si suona ci si conosce tutti all'inizio di trasmissione parlavamo con i Regal di questo sviluppo di questo gruppo che si allarga. Pensavo anche a voi, vi allargate, cioè cercando di altre amicizie, altri ospitate, questo voglio dire, o è una cosa ristretta a voi? Ma al momento direi che abbiamo trovato un equilibrio che funziona. No, non quel... che prenda il posto di qualcuno. Certo, assolutamente no. Ma anche in aggiunta, ecco, sentiamo i pezzi completi così. Secondo noi non manca niente, quindi al momento va bene. Al momento andiamo bene così. Poi insomma, vedremo, ecco. Con il nuovo sound anche che sta un po' saltando fuori. Quindi, con questa registrazione, chiedo, sì. Dove vi modificate un po', insomma? Ma più che altro negli effetti che usiamo sul basso, sulle chitarre. Comunque il genere è questo. Sì, il genere è questo, però ha una veste un po' diversa, perché usando effetti anche a volte un pochino pesanti, che non sono distorsioni sempre estreme o certo. Così. Però anche, come diceva prima Mauro, su Musa il delay è usato in maniera intelligente, dà quasi l'impressione che sotto ci siano due tastiere. Che... No, ho capito. E invece è solo uno. Quindi stiamo cercando un po' questo, un po' il lavoro di Cesello, ecco, perché il cuore dei pezzi c'è. Vediamo di vestirli un po' in maniera diversa per renderli ancora più interessanti. Certo. Ho capito. E se qualcuno invece volesse acquistare il vostro disco... Noi abbiamo il profilo Facebook Vibrida, www.facebook.com/vibrida, il sito www.vibrida.com, lì ci sono i riferimenti, ci può mandare un'email e noi sono anche rispondiamo. I vostri certo. E certo, poi ci sono anche i nostri profili personali, quindi... Tutto quanto, per cui se decideremo, perché qua si cambia idea anche dalla sera alla mattina, così, quindi però se mi permettete un mio modesto parere, non c'è un leader tra di voi, siete tutti uguali, 25% a testa. No, io il 30. Questo è più alto, ma è bello, sai, quello che cioè è in senso buono quello che sto dicendo, è bello vedervi tutti uniti così, insomma. Però però la SIAE l'ho pagata io. La sala prove è mia. Sì. Andiamo sulle minacce. Vedo che siete molto uniti. Sì, il Brunello è mio anche quello. Scusa. Va bene, sono le 23:53, ci salutiamo con l'ultima canzone. Direi di sì. Cosa ci fate ascoltare prima di visto che il monopolio è di Alessandro? Ok, allora mi devo prendere le mie responsabilità e quindi facciamo un pezzo che si chiama EP. Che molto però bene. Non è il nostro EP, qua no. Ce lo spiega Ero. Se allora, si è esatto. EP è uno dei primi brani che ho scritto un po' di tempo fa, 12 anni fa. 12 circa. Anni fa. E... indovinate di cosa parla? Sì, dai, il nome e il cognome di, di Castori. Sono le lettere del nome e il cognome di una ragazza, ragazza che non può essere menzionata perché, certo, per motivi diversi, motivi, esatto, certo. Per privacy, perché non ha firmato e quindi sì, anche per quello sì. Anche per quello, esatto. E niente, l'ho mollata. Ah, ecco. Sì, ma ecco, adesso è stato lui. Qualcuno di questa volta è stata colpa mia. No, non è stata lei che ti ha mollato. No, questa volta ci ho pensato io. Ah, ci hai pensato te. Vuol dire che era proprio È arrivata alla fine. Era arrivata alla fine, ma di non c'è tutto. Controprova, quindi sì, no. L'idea musicale è partita da quello e poi la sviluppa dopo tanti anni, come hanno accettato i ragazzi una riproposta di un pezzo di 10 anni fa, di 12 anni fa. Ma a parte il fatto che metà della scaletta che noi proponiamo è circa dai 4, 5, 10 anni fa. Ah, ok. Loro hanno sentito un prodotto, come ti dicevo prima, sì, che era già stato. Ma non parlo di questo, esclusivamente di questo, di 12 anni fa o 10 anni fa. Ma l'hanno sentito molto attuale e credo nelle loro corde, perché di base è un brano funk rock. Ecco, quello volevo capire. Sì, tra l'altro c'è anche una parte di slap col basso che stasera per ovvi motivi non puoi farlo. Non posso fare. Quindi come il pezzo ci è piaciuto da subito, abbiamo voluto rifarlo proponendolo con un sound diverso che insomma ascolterete a breve con quello che uscirà dalla nostra sala prove / studio andare a fine anno. Magari vi faremo avere un'anteprima, ecco, insomma, di qualche registrazione casalinga che comunque che farà parte del disco nuovo. Esatto. Sì, esatto. La canzone, mi ripeti il titolo? EP. EP. Allora, un grazie di cuore ai Vibrida, e cioè a grazie Mauro a voi. Siviero, a ad Alessandro Medici, Eros Ferrarese, grazie. E Stefano Fogli. Grazie a voi. Grazie di essere venuti qui questa sera. Vi aspettiamo per il prossimo disco, sul serio. Veramente. Esatto, e noi torneremo volentieri perché è stata veramente una serata stupenda. Vogliamo fare un ringraziamento di cuore a tutti gli ascoltatori innanzitutto, insomma, sperando anche che ci vengano a trovare sul web, esatto, e non solo, ecco, non solo. Ai concerti che faremo. Un grazie a voi grandissimo, esatto, perché grazie veramente mille, dare, e qui lo voglio dire a nome di tutti i gruppi che fanno musica emergente, musica originale, trovare una radio, uno spazio così organizzato che metta a disposizione due ore di diretta in questo modo è rarissimo. È raro e è rarissimo, ce ne vorrebbero di più, quindi grazie davvero di cuore. Grazie. E grazie, spero che il vostro lavoro sia d'esempio ad altre radio che decidano di dare spazio anche a chi ha poca voce. E noi abbiamo una cosa sola, e ci tengo a sottolineare, noi diciamo speaker della radio, abbiamo la passione per la musica, non c'è altro, c'è solo quello e lo facciamo con è il quella cuore. Che conta. Noi la condividiamo con voi suonando ed è la passione più bella che ci possa essere. Esatto. Gilles, volevi dire qualcosa tu? Sì, io volevo dirvi che sicuramente la prossima volta che Alberto vi inviterà per il prossimo lavoro, sicuramente troveremo un gruppo che avrà fatto un altro passo avanti sicuramente. Grazie ragazzi. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille. L'appuntamento invece con il sottoscritto e con il nonnetto è domani sera, vero Maurizio? Sì. Al di là, sì, è domani sera con si cambia completamente genere. Cambia genere con un'artista friulana, triestina, pardon, sì, viene da Trieste, cantautrice un po' atipica però. Un po' alla Susan Vega, ragazzi. Sì, molto, molto, molto brava, veramente. Vi aspettiamo, meglio dire, alle 21, appunto, con Marnet Calvi, che sarà qui fino alle 22:30. Ragazzi, allora, un grazie ancora grazie, di cuore. Grazie, ragazzi. Grazie a voi. Io vi auguro un in bocca al lupo per la vostra carriera, che sia piena di successi. Crepi. E un buon proseguimento ai nostri ascoltatori con i nostri programmi che proseguono ovviamente sempre qui da Blu Radio Veneto sulle nostre frequenze 88 700 e 94 600 MHz. L'appuntamento è a domani sera con il sottoscritto, con Maurizio e anche con Gilles se potrà venire, e con Marnit Calvi. Ciao ai Vibrida. Buonanotte, grazie. Ciao a tutti. sfondo coi tuoi occhi e ti accorgi che non sono rose che ti aspetti. Corri forte, ma a che cosa stai fuggendo? Ti torno a te, ora immobile. Il nuovo sole, la sua luce può risvegliarti dal torpore di una notte che ti ha lasciato senza sogni, immagini, ora qui non c'è, ora la tua mente è un oceano di pensieri nella quale io non so nuotare, ora la tua luce è offuscata da un'immagine, più a vedere te. L'infanzia ormai l'hai lasciata alle tue spalle, un'adulta sei e non sbagli mai, ma che cosa vuoi? Cerchi ancora le risposte a domande che non ti farei mai, oh, mai, oh, mai. Ora la tua mente è un oceano di pensieri nella quale io non so nuotare, ora la tua luce è offuscata da un'immagine, non riesco più a vedere te. Ora la tua mente è un oceano di pensieri nella quale io non so nuotare, ora la tua luce è offuscata da un'immagine e non riesco più a vedere te. Grazie.